Dunque, il legame tra Bolsonaro, la famiglia Bolsonaro e Ben non era un po' chiacchierato, tra virgolette, da molto tempo, cioè in realtà da un periodo della campagna elettorale, solo che Bolsonaro all'epoca candidato aveva sempre cercato di distaccarsi dal, diciamo, da questa associazione accanto a Bannon. Lo scorso agosto, durante la campagna elettorale, c'è stato questo tweet di Bolsonaro, di Eduardo Bolsonaro, che sarebbe il terzogenito del presidente, che insomma postò una foto mentre si trovava con Bannon, credo a New York in quell'occasione. Nonostante questo, Bolsonaro fu chiamato ovviamente in causa per questo incontro che c'era stato, avrebbe insomma smentito ogni tipo di rapporto, ogni tipo di contatto. Poi a novembre è emerso che c'è stato un altro incontro tra figlio di Bolsonaro e Steve Bannon, stavolta a Washington, quando Bannon ha rivelato insomma di essere stato colpito da Eduardo Bolsonaro e di averlo scelto per essere il responsabile di The Movement, che sarebbe la sua organizzazione politica in America Latina. Ora, niente di illegale, voglio dire, però diciamo, questa associazione tra Bolsonaro, tra il figlio di Bolsonaro, che tra l'altro è deputato federale, diciamo, nel Parlamento brasiliano, comunque ci fa riflettere, ci impone una riflessione. Prima di tutto perché Bannon è il responsabile di questa organizzazione politica che punta, come dire, a riunire i politici di tutto il mondo sotto un unico cappello, questo appunto di questa organizzazione, tutti i politici che, come dire, rivendicano un'agenda politica fondata sul populismo, sul, diciamo, anche un militarismo un po' più spinto, sul nazionalismo, sovranismo, come si dice adesso, e altre, diciamo, indicazioni politiche, anche di politica economica, in quanto, diciamo, neoliberali. Il movimento di Bannon nasce a Bruxelles in realtà e vede tra, diciamo, i fondatori, come recita la pagina anche di Wikipedia dell'organizzazione, anche il ministro degli interni italiano Salvini, il premier ungherese Viktor Orbán, anche il Geert Wilders, sarebbe il candidato premier olandese, diciamo, nazionalista, e altri politici, insomma, dell'area. Diciamo, l'organizzazione cerca alleati nuovi anche in Sud America e è stato scelto Bolsonaro come portavoce, insomma, come apripista per questa organizzazione. Quello che c'è, diciamo, di interessante è che si è sempre cercato di allontanare questo legame tra Bolsonaro e Bannon, perché Bannon sappiamo essere stato l'artefice della campagna elettorale vincente del presidente degli Stati Uniti Trump, e sappiamo anche che è ritenuto uno dei padri putativi di Cambridge Analytica, che sarebbe questa associazione che è finita al centro di uno scandalo qualche mese fa, perché questa è una società di consulenza che si occupa sostanzialmente di campagne elettorali. È stata, insomma, tirata in ballo in questa inchiesta nel Regno Unito, laddove si, diciamo, emergerebbero delle irregolarità nella manipolazione di dati acquisiti da Facebook per condizionare sostanzialmente le scelte del voto in relazione a una serie di campagne elettorali, tra le quali le più importanti, appunto, quella degli Stati Uniti e quella della Brexit, i cui effetti si stanno avendo in questi giorni nel Regno Unito. Per cui, per evitare ogni tipo di possibile illazione, questo legame è stato tenuto sempre lontano, però ovviamente adesso è uscito fuori alla luce del sole, per cui alcune domande ci sono, tra le tante anche, come dire, la concomitanza temporale che farebbe poi, come dire, emergere altre domande, perché l'incontro di Bolsonaro e Eduardo con Bannon ad agosto, come dire, è stato un incontro non ufficiale, però da quel momento in poi la crescita, diciamo, nei sondaggi di Bolsonaro è stata poderosa, per cui è anche interessante, insomma, eventualmente, come dire, andare ad approfondire questo tipo di cose. Però quello che c'è di fatto è che il Brasile è al 100% al centro delle mire di tutte le potenze, diciamo, di destra del mondo, tra le quali c'è quella di Bannon e tra le quali c'è comunque principalmente l'amministrazione di Trump, che, come dire, si contende, come dire, il primato nel cuore di Bolsonaro con Bannon. Per cui poi nei prossimi mesi sarà anche interessante vedere quali saranno gli scenari e come si metteranno sullo scacchiere le posizioni anche future. Tra l'altro Bolsonaro ha già annunciato che il mese prossimo, la seconda metà di marzo, sarà in visita ufficiale negli Stati Uniti, sarà la seconda visita ufficiale, ma in realtà la prima, perché la prima ufficiale è stata in Argentina, non si è allontanato molto, per cui è molto interessante, diciamo, è uno scenario politico nuovo, interessante, nel senso che emerge comunque questo legame forte tra tutte le destre, sia dal punto di vista economico, puntando sul neoliberismo, sia dal punto di vista religioso, perché sono tutti dei ultraconservatori cristiani, i Bolsonaro sono evangelici, Bannon è cattolico, ma voglio dire l'area è quella, e sono tra l'altro tutti legati più o meno ufficialmente all'Istituto della Dignità Umana, che sarebbe quell'istituto che sorge nel convento nel Frusinate, di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi, che, come dire, dal punto di vista religioso e prettamente religioso Caruso mira anche questo a unire tutti i politici, diciamo, di destra, conservatori e più o meno sovranisti del mondo. Ecco, una domanda che ti vorrei fare è sulla reazione, diciamo, che c'è stata, visto che dicevi appunto un po' se ne parlava già, però a questo punto è diventato abbastanza palese. Quindi la prima domanda è se ovviamente è diventato palese anche nella stampa brasiliana e se sì, come è stato recepito, diciamo, in Brasile secondo te? Perché comunque anche la questione dei legami con gli Stati Uniti probabilmente hanno un peso diverso di quello che possono avere in Italia, per esempio. Ma in realtà il grande problema della stampa brasiliana e di riflesso dei brasiliani in generale è quello di essere tendenzialmente autoreferenziali e un po' provinciali, nel senso che come si va fuori dal confine, loro è come se perdessero un attimo riferimenti, per cui non hanno capito la dimensione, diciamo, dei meccanismi internazionali, per cui questa cosa di Bannon sì, però è straniero, quindi come quasi come se non dessero abbastanza peso questo tipo di cose, per cui sì, si è detto ok, però non ha avuto grandissimo risalto, cioè la notizia è uscita, è stata girata poi su tutti i siti, ha circolato un po', però non so quanto, ovviamente non riesco a leggere tutti i giornali tutti i giorni, però non ho letto, tra quelli che ho letto, non ho letto grandi analisi di scenario, nel senso che è stato dato come un dato di fatto, punto. Però, ripeto, la stampa brasiliana ha un po' questo problema di essere un tantino autoreferenziale e provinciale, che insieme causa una profondità di veduta un po' corta, diciamo, per cui una profondità di campo non abbastanza ampia, per cui non so, i brasiliani, il brasiliano medio non è arrivata la notizia, nel senso che non sono questo tipo di informazioni quelle che riescono a essere sintetizzate o acquisite facilmente dalla popolazione, insomma.